Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo con Alessandro Tiberio di Wanted Cinema per parlare del film Estate 1993 di Carla Simon Pipo. Alessandro, ben trovato. Ciao, ciao a tutti, ben trovato a te. Ce ne parli un po'? Sì, certamente. Siamo con un film particolarissimo, è un film spagnolo, anzi, diciamo catalano, che forse è il caso di spiegare. Di questa giovanissima regista, Carla Simon è un esordiente che ha elaborato una propria esperienza di vissuto personale anche molto tragica, perché lei è rimasta orfana appunto in tenera età, e ha voluto ricostruire questa sua esperienza con questo film incredibile, Estate 1993, che parla appunto della prima estate di una bambina dopo aver perso i genitori in un tragico incidente, e la sua integrazione nella sua nuova famiglia con gli zii e una bambina leggermente più piccola di lei che diventerà la sua sorellina. La cosa peculiare di questo film è che a noi non è mai successo di vedere proprio con un realismo indescrivibile e con un'empatia veramente unica la ricostruzione di qualcosa del genere. Basta dire che proprio il film assume talmente il punto di vista della bambina che anche la posizione della macchina da presa è sempre proprio ad altezza di bimba, con una presenza trasparente, completamente impercettibile, e con un realismo nella ricostruzione delle situazioni, in particolare con le interpretazioni di queste bambine che hanno qualcosa di miracoloso. È un film dalla carica emotiva potentissima, anche perché appunto il dramma è sempre implicito, non è mai descritto, non è mai portato in primo piano, si vede semplicemente proprio tutta la reazione e questo delicatissimo questo roller coaster emotivo di questa bambina che appunto alterna momenti di grande affetto, di grande entusiasmo, a dei momenti dove il dramma è proprio nelle sue reazioni, non è mai nelle parole, non è mai nelle azioni, è proprio nel suo volto, in questo modo incredibile che hanno i bambini, no? Di shiftare ogni tanto facendo vedere dei lati diversi della propria emotività. Il film ha stregato il Festival di Berlino, era nella sezione Generazione, e noi, insomma, ci ha conquistato in quell'occasione, e nel frattempo ha fatto uno splendido percorso, perché è stato uno dei film protagonisti dei Goya, è stato protagonista agli EFA, agli European Film Awards, e è il film che rappresenterà la Spagna ai prossimi Oscar per il miglior film straniero. Il che appunto è anche un messaggio politicamente particolare, perché il film è tutto parlato in catalano, si svolge in Catalogna, quindi insomma è un segnale forse distensivo il fatto che la Spagna si senta rappresentata da un'opera catalana. Sì, sì. Il film tra l'altro esce in, devo dire, ahimè, poche sale, ma il periodo purtroppo è questo, cioè ci sono tantissime sale che di solito sostengono molto bene i nostri film e che trovano in affinità elettive con il nostro listino, ma tantissime sono chiuse, e questo è uno dei drammi di questo paese durante la stagione estiva. Mi avevo sentito rumore. Sì, niente. Lo distribuiremo per adesso in versione originale con i sottotitoli, proprio perché siamo in cosa del genere, perché riuscire a rendere questa spontaneità, questa poesia che ha in maniera unica questo film ci mette veramente in un grandissimo imbarazzo. Ora vediamo come viene accolto in questa sorta di release, pre-release estiva, e poi vedremo insomma se riproporlo durante l'autunno in una versione doppiata. Però ecco, è uno di quei pochi casi in cui nonostante la disaffezione di molti ai sottotitoli, nonostante grandi come Kubrick li odiassero, però credo che veramente sia un'esperienza unica sentirlo così come vissuto proprio da questi bambini straordinari che lo hanno interpretato. Bene. Allora ricordiamo Estate 1993 di Carla Simon Pipò, distribuito da giovedì 5 luglio da Wanted Cinema. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tiberio. Alessandro, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie infinite, ricordo solo per controllare appunto l'elenco delle sale e trovare la sala più vicina agli spettatori di controllare sul sito wantedcinema.eu. Perfetto, a presto. Grazie mille, a presto, alla prossima. Ciao. Ecco, noi Giusy Santoro di M2 Pictures per parlare del film Giochi di potere di Per Fly, in uscita in sala 11 luglio 2018. Giusy, ben trovata. Ben trovati a voi. Lo raccontiamo brevemente? Sì, allora, Giochi di potere è un film che tra l'altro è ispirato a una storia vera ed è ispirato poi ad un libro, all'autobiografia di Michael Susan, che è Backed Up for Beginners, My Crash Course in International Diplomacy. Questa storia racconta uno dei scandali più clamorosi che ha fatto proprio tremare le fondamenta delle Nazioni Unite. E in questo film Theo James interpreta un giovane diplomatico americano, Michael, che dopo aver trovato il lavoro dei suoi sogni alle Nazioni Unite come coordinatore proprio all'interno del programma Oil for Food, si ritrova suo malgrado invischiato in una rete di intrighi, di tangenti, insomma di corruzione nell'ambito di questo programma. Programma che tra l'altro permetteva all'Iraq di Saddam di vendere petrolio in cambio di aiuti umanitari. Michael quindi cercherà insomma delle risposte nell'unica persona della quale si poteva fidare ed era convinto di potersi fidare, Pasha, interpretato da Ben Kingsley, che era il suo capo ed esperto diplomatico. Però piano piano insomma che va avanti si renderà conto di essere al centro di una cospirazione ad alti livelli, per cui l'unica via di uscita era proprio quella di denunciare tutto, mettendo a rischio non solo la sua vita ma anche delle persone a lui vicine. E nel caso, oltre a Theo James, vorrei sottolineare Ben Kingsley, abbiamo anche Jacqueline Bisset. Sì. Questa è la storia molto in breve. Sì, sì. Aggiungo che Per Fly è un regista che avevamo apprezzato e conosciuto in Italia grazie al suo terzo film che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, almeno qui da noi, che è L'Eredità. Senti, quali sono gli elementi del film che vi hanno più convinto? Beh, sicuramente questo è un po' in genere diciamo la cosa che ci ispira e che ci guida quando andiamo ai mercati a selezionare i film. Cerchiamo sempre di trovare delle storie interessanti, sicuramente questa è una storia interessante proprio per quello che ho detto all'inizio, cioè una storia vera. Tra l'altro questo scandalo è molto conosciuto, a parte a livello internazionale, anche in Italia, perché sono stati coinvolti anche dei politici italiani. Tra l'altro poi il programma appunto Oil for Food è stato il programma diciamo più famoso appunto delle Nazioni Unite, è stato istituito nel lontano 95 e poi chiuso per questi scandali nel 2003 dopo l'invasione dell'Iraq da parte degli americani. Infatti in quell'occasione gli americani trovarono proprio negli archivi del Ministero del Petrolio dei documenti che provavano proprio questi illeciti, e la commissione d'inchiesta varata insomma dall'ONU accertò proprio che la quasi totalità del petrolio era stata assegnata a delle società intermediarie che poi praticamente facevano la cresta sulla vendita del petrolio, come si suol dire, lo rivendevano quindi il greggio a prezzo maggiorato e poi trattenevano una quota profitto proprio per questa loro intermediazione e quindi versavano delle tangenti ai funzionari iracheni. Questo è stato uno scandalo enorme. Sì, sì. E appena abbiamo visto il film ci è piaciuta la storia, ci è piaciuto ovviamente il film, un cast internazionale di altissimo livello, per cui questi sono tutti sicuramente elementi che ci hanno convinto a procedere all'acquisizione e quindi a distribuirlo in Italia. Tra l'altro aggiungo, sempre rispetto ad Oil for Food, si vede anche nel film, i medicinali che venivano distribuiti alla popolazione erano molti, erano scaduti, la gran parte erano scaduti, insomma, quindi questo era un ulteriore scandalo nello scandalo. Sì, assolutamente. Giusy, che distribuzione sarà? Sarà una distribuzione wide, usciremo in 220 copie, proprio insomma oggi, quindi un'uscita insomma importante. Poi in occasione di questa settimana, dove sappiamo insomma ci sono i Cinema Days, insomma, dove si può andare al cinema risparmiando, ecco, qualche soldino in settimana, quindi è un'ottima insomma data di uscita, un'ottima occasione, ecco, per andare al cinema. Allora ricordiamo Giochi di potere di Per Fly, in uscita in sala l'11 luglio. Un ringraziamento e un saluto a Giusy Santoro di M2 Pictures che lo distribuisce. Giusy, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, un abbraccio e a presto. Con noi il direttore Antonio Bellia per parlare della 10ª edizione del Sicilia Ambiente Documentary Film Festival a San Vito Lo Capo dal 10 al 15 luglio. Antonio, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. 10ª edizione a tutto tondo, ci racconti un po'? Sì, una edizione ovviamente molto, di cui siamo molto orgogliosi, perché siamo arrivati a un traguardo importante, quello della 10ª edizione, e abbiamo cercato di confermare alcuni, soprattutto i partner a cui tenevamo di più, per cui abbiamo questo rapporto con Amnesty International confermato, il rapporto con l'AMOD confermato, e poi tante collaborazioni minori che trovo altrettanto importanti. Il festival quest'anno ha tre sezioni competitive, che sono la sezione documentari, di cui abbiamo ben 8 film in concorso, di cui ben 3 anteprime nazionali, di italiani ce ne sono 3, da questi 8, e poi abbiamo invece la sezione cortometraggi, che sono 12 filmati, 12 film, e la sezione animazioni, che sono 10 film. E poi abbiamo comunque un premio di cui andiamo appunto orgogliosissimi, è proprio il premio International, che l'Amnesty International assegnerà al miglior film a tematica sui diritti umani, essendo noi un festival sullo sviluppo sostenibile, quindi uniamo i due aspetti che più ci interessano, cioè la tutela dell'ambiente da un lato e i diritti umani dall'altro, e questi due elementi coesistono in tutte e tre le sezioni competitive. E con film, devo dire, veramente quest'anno di grandissimo spessore. Mm-hmm. E ti posso dire, ovviamente abbiamo degli eventi speciali, abbiamo una serata Greenpeace con il tema centrale che è le plastiche. Quest'anno il festival è dedicato a questo tema, all'inquinamento delle plastiche nei mari soprattutto, in particolare, e alla campagna, e stiamo lanciando una campagna con anche una raccolta firma durante il festival, per far sì che le amministrazioni comunali dei paesi della costiera, diciamo, della Sicilia occidentale, in qualche modo facciano proprio la richiesta, l'eliminazione delle plastiche monouso, sì. Anticipando quella che poi sarà nel 2020 la normativa europea, che però prima che venga viene effettuata, chissà quanto tempo passerà. Poi abbiamo delle giurie, abbiamo in giuria lungometraggi, abbiamo Maurizio Di Rienzo, abbiamo Yvonne Show, e abbiamo Antonietta De Lillo, e abbiamo Luca Ribori, mentre nella giuria dei cortometraggi e delle animazioni abbiamo Claudio Olivieri dell'Archivio del Movimento Operario, Nico Bonomoro, il vincitore dell'edizione delle animazioni dell'anno scorso, nonché anche nominato nella cinquina dei Donatello di quest'anno delle migliori animazioni, e Mario Magno, che è un casting ormai, diciamo, siciliano, ma ormai abbastanza noto, diciamo, per tornare alla traiettoria. Che altro ti posso dire? Abbiamo ovviamente la serata International sabato, con sul tema delle molestie sulle donne, soprattutto sul posto di lavoro, e su questo appunto ci sarà la proiezione del film di Yvonne Shaw, Seven Woman, e con l'incontro con Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International, che domenica consegnerà il premio Amnesty International Italia. Antonio, considerato che è un'edizione importante come decima, ti chiedo anche un bilancio su come si sta trasformando il festival. Ma guarda, il festival stiamo cercando di dare sempre un'identità sempre più forte, sicuramente, e devo dire che il riconoscimento da parte di organizzazioni come Amnesty International da una parte per quanto riguarda i diritti umani e Greenpeace dall'altra per quanto riguarda la tutela soprattutto dell'ambiente è una dimostrazione ormai dell'importanza che il festival ha nel panorama degli eventi tematici, diciamo, culturali in Italia. E poi stiamo cercando sempre di più di utilizzare la cornice ambiente, la cornice di San Vito Lo Capo come vetrina, nel senso stiamo potenziando ogni anno di più le proiezioni sul mare. Poi abbiamo questo schermo galleggiante bellissimo con cui facciamo la seconda sala del festival e devo dire che è uno spettacolo anche visivo, semplicemente vedersi al godersi il film, anche se c'è magari per qualche storia c'è un po' di novità in più, ma è uno spettacolo straordinario. E poi il bilancio secondo me è molto positivo, insomma ormai abbiamo tanta gente che si programma le vacanze in funzione del festival, abbiamo grandi riconoscimenti, riceviamo veramente tantissime opere anche inedite, e questo è bellissimo perché abbiamo dei film, quest'anno abbiamo dei film veramente belli come anteprime nazionali. Io ti dico la verità, io quando faccio la selezione non guardo mai se ci sei anteprima o anteprima, lo scopro solo dopo. Quando poi passo i titoli, le ragazze mi mandano le schede, io guardo e scopro che sono anteprime, perché è una cosa che a me interessa molto relativamente. Mi fa piacere quando scopro di avere delle anteprime nazionali, perché ovviamente dà prestigio al festival, ma reputo anche questo una cosa sbagliata, perché nell'ambito del documentario questa è una lotta mia personale da tanti anni, io conduco anche prima di fare il festival, sul fatto che i festival, soprattutto di media consistenza, non debbano avere la richiesta necessaria delle anteprime. In un paese in cui il documentario è maltrattato, in cui la televisione ignora il documentario, i festival devono avere un ruolo di potenziarli, di far vedere, di mostrarli ai cittadini, alla gente che ama il cinema, che ama, e non puoi escludere un film dalla selezione solo perché è stato già in un altro festival. Mi sembra una cosa veramente ridicola. Sì. Lo capisco per i grandi festival che devono essere delle vetrine, che ti danno un'importanza, diciamo, anche poi danno dei punteggi, i ministeri, così via, ok. Quelli posso essere d'accordo, ma tutti gli altri che mi richiedono, questo lo dico anche come autore, e spesso ci incappo anch'io in questa cosa, che devi essere, il tuo film deve essere edito per essere preso da un festival medio, piccolo meme, di piccole e medie dimensioni, mi sembra veramente folle in un paese in cui i documentari si vedono pochissimo nei canali principali. Sì. In chiusura, Antonio, ricordi anche il sito internet per seguire la programmazione? Sì, il sito è www.festivalsicilianiente.it. Perfetto. Ricordiamo la decima edizione del Sicilia Ambienta Documentary Film Festival San Vito Lo Capo dal 10 al 15 luglio. Un saluto e un ringraziamento al direttore Antonio Bellia. Antonio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Un abbraccio Federico e spero che magari col nuovo decennio direttamente qui e ce la fai qui in intervista. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio carissimo, ciao. Ecco, noi Nadia Pizzuti, una delle curatrici della rassegna Il colonialismo italiano raccontato dalle donne, dal 16 al 19 luglio alla Casa Internazionale delle Donne. Nadia, ben trovata. Ciao, grazie. Dici tutto. Allora, quindi è una rassegna che durerà 3 sere alla Casa Internazionale delle Donne, che abbiamo organizzato in tre, quindi io, Isabella Peretti e Stefania Voltellini, in collaborazione con l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico e l'Istituto Luce, che ci hanno fornito alcune copie di film. Lo scopo di questa rassegna è quella di, insomma, di ricordare una pagina nera, ma ancorché rimossa, una mia ipotesi misconosciuta della storia italiana, no? Quella del colonialismo, che ancora non si insegna nelle scuole, tanto per dire. E in particolare ci interessava partire da storie che raccontano dalle donne, registe donne, documentariste, perché spesso emerge di più la vicenda personale, no? Quindi loro partendo da storie familiari, quindi in un caso il padre, in un altro caso lo zio, aprono proprio uno squarcio molto importante su questa pagina, come dicevo, che è dimenticata. E quindi in pratica questo è un modo per favorire il ritorno del rimosso, se possibile. Il primo film, che è lunedì 16 luglio, Sì. 20, 30, 21, e Pagine Nascoste, Sabrina Vagani, che avevamo già presentato all'interno della fiera del libro dell'editoria delle donne, Feminism, a marzo scorso. E questo è un documentario ispirato al libro che è stato anche candidato allo Strega, Sangue Giusto, di Francesca Melandri. Nel documentario praticamente si racconta il percorso della vita della scrittrice, che casualmente scopre, che il padre è un fascista, nel senso tutti erano fascisti, però lui credeva che fosse uno che poi, dopo la campagna di Russia alla quale aveva partecipato, aveva subito una conversione, no? Sì. Anzi, invece ha scoperto che aveva scritto degli articoli addirittura dopo la liberazione, dopo il 45, quindi non solo la visione al regime, ex mai regime, ma in più giustificava, cioè sosteneva la superiorità della razza italiana, eccetera. E quindi questo è il romanzo che lei ha scritto. Invece nel film poi si vede lei che racconta come è arrivata a scrivere questo libro, e tra l'altro appunto c'è anche un legame col presente, con questo nazismo che ritorna sempre fuori, no? Sì. In Italia c'è, cioè, questo passato coloniale che alla fine non solo non è mai stato, l'Italia è un paese che non ha mai fatto i conti, no? Veramente col proprio passato coloniale, ma soprattutto riemerge prepotentemente, sappiamo, no? Nella vita quotidiana, soprattutto con il nuovo governo, abbiamo, e soprattutto nei confronti appunto di tante persone che cercano rifugio nel nostro paese. Beh, cioè, ci sono anche casi clamorosi come il mausoleo dedicato a Graziani, ad Affile, insomma. Esatto, questa è una cosa che è appunto vergognosa, che è stata avallata, no, anche dal sindaco e persino dal parroco. E poi non so, cioè, ci sono queste, ma ci sono anche tutte forme di ignoranza, che a Roma la gente non sa, per esempio, che Piazza del 500 viene dal Lecidio, no? Dogali, dove che fu presentato come una cosa eroica, quando invece, no, era uno degli episodi della guerra coloniale italiana. Cioè proprio non solo si cerca sempre di ricordare solo la parte che sarebbe comodo, ma in più si dimentica, no? Non si parla di quello che l'Italia ha fatto, insomma, inutile che lo ricordi io, Sì. perché penso che chi ascolta Radio Conte Rossa lo sa, Sì. centinaia di migliaia di morti, no? Gente gasata e ammazzata, molti civili, e in più quello che ci interessa è il rapporto con le donne, no? Le donne che emerge in tutti e tre i film, soprattutto il primo, che è questo cosiddetto madamato, no? Di cui si è parlato in Italia per via di Montanelli, che disse, no, che lo ricorderai, ho sposato una ragazza di 12 anni, si fa per dire sposato ovviamente, è una forma di matrimonio temporaneo in cui le donne naturalmente non avevano nessuna garanzia, erano domestiche e come si dice, prostitute di fatto, no? Sì, È una forma di sì. prostituzione. Poi si sa che, no, che spesso i figli che nascevano non venivano riconosciuti dai padri Sì, italiani, finivano in orfanotrofi, no? sì, Ci sono tantissime storie. È tutto un filone, naturalmente, che però non abbiamo privilegiato, no? Diciamo, è accennato in tutti questi documentari, ma sarebbe un filone da seguire anche quello, no? Dei figli di queste persone. Nadia, gli altri titoli? Sì, allora ti volevo giusto aggiungere che la prima serata ci sarà Ah, la sì. regista Francesca Koch, che è uno storico, è la Benissimo. presidente anche della Casa delle Donne. E passo velocemente al secondo, che è Oltre Mare di Loredana Bianconi, che anche questo è un film che è fatto esclusivamente di materiali di repertorio, ci sono delle interviste ma senza volti, e questo ricorda, appunto, sono basato su lettere, documenti, foto di abitanti di un piccolo paese in provincia di Imola che, come tanti, furono spinti dalla miseria ad andare, no, nelle colonie e dopo furono il famoso posto al sole, no, che voleva Mussolini, e dopo però il loro sogno si spezzò dopo che naturalmente l'Italia fu costretta a ritirarsi e tornarono indietro. E queste piccole vicende personali, no, anche queste sono importanti per raccontare una storia più grande. E ci sarà la regista, lo storico Alessandro Triulsi e la scrittrice Giada Scego. Sì. Vado veloce, la terza serata. E qui c'è una chicca che è un filmato di 20 minuti che ci ha dato l'archivio del Movimento Operaio, 2003 a Roma, testimonianza di una condizione. È molto interessante perché è stato girato nel 77, quando erano gli anni in cui venivano molte donne eritree a seguito delle famiglie italiane, perché c'era la guerra Eritrea-Etiopia, e questa testimonia un po' questa condizione pesantissima di queste donne che erano sfruttate anche in Italia quegli anni. E poi c'è una parte più ideologica su quello che faceva il Fronte Popolare di Liberazione, no, in quegli anni, fino poi ad arrivare alla liberazione dell'Eritrea. Questo è un primo filmato, e poi ci sarà l'ultimo documentario, che è Good Morning Abyssinia, di Chiara Ronchini e Lucia Sveglia. E questo è stato girato più di 10 anni fa, ma è interessante perché parla proprio di come vivono gli eritrei a Roma, come vivevano e probabilmente in parte ancora vivono. E quindi ci sono molte interviste. E questo poi è quello che è più centrato anche sul presente, perché si parla di questa dittatura feroce, no? Sì. In Eritrea, per cui moltissimi eritrei scappano, cercano di venire in Italia, ma quando ci riescono non se ne parla quasi mai. Cioè, per avere le notizie degli eritrei che appunto si imbarcano, bisogna guardare i media stranieri, perché in Italia c'è una rimozione totale, no? L'Italia ha rapporti diplomatici con questa dittatura eritrea, e quindi adesso vado veloce, e qui ci sarà appunto quindi vari temi, no? Quello del passato coloniale, ma anche della condizione degli eritrei oggi qui, e ci saranno moltissime persone, una delle registre, poi ci saranno una dell'archivio del Movimento Operaio, ci saranno due esperti, Leonardo De Francesco e Caterina Romeo, poi Giuliana Sbena, giornalista notissima, e Mario Boccia, fotografo notissimo, che sono stati all'epoca della guerra di liberazione, erano in Eritrea. Poi ci sarà la libreria Griot, che è appunto specializzata, no, in letteratura e non solo, dei paesi africani, che avrà il sostegno durante le tre giornate. Benissimo. I riferimenti internet per la programmazione? Dunque, mi fai una buona domanda. A parte Facebook, la Casa delle Donne, si può andare nel sito. Benissimo. La Casa delle Donne, e c'è il calendario. L'orario oscilla tra le 8:30 e le 21, perché si comincia un po' a pagare prima, poi si proiettano i film. Allora, ricordiamo la rassegna Il colonialismo italiano raccontato dalle donne, dal 16 al 19 luglio alla Casa Internazionale delle Donne. Un ringraziamento e un saluto a una delle curatrici, Nadia Pizzuti. Nadia, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, un abbraccio anche a te e a tutti quanti. Grazie. Ciao. Dai. Con noi Rosalba Colla, direttrice della quarta edizione di Animafix, International Animated Film Festival, a Bagheria, Palermo, dal 18 al 22 luglio. Rosalba, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cos'è Animafix? Animafix è un festival di cinema d'animazione d'autore che si svolge appunto a Bagheria e Palermo. Nato 4 anni fa e quindi prossimi alla quarta edizione, che si svolge in una meravigliosa location che è quella di Villa Cattolica, sede del Museo Guttuso. Sì. E da quest'anno anche appunto a Palermo abbiamo appunto presentato la sezione fuori concorso già ad aprile ai cantieri culturali della Zisa, al cinema De Seta.

Noi e la Grecia, per ora. In Europa hanno costruito dappertutto e nel resto del mondo anche. Allora, speriamo di sentirci presto per delle novità. Nel frattempo vi ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a te. Grazie mille, grazie molto a te. Ciao, a presto, ciao. Alessandro Turci e Federica Miglio, registi del documentario Don't Flash Your Freedom, in visione gratuita sul canale YouTube Films and Clips per la settimana che va dal 9 al 15 luglio. Con noi Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures per parlare del film Morto Stalin se ne fa un altro di Armando Iannucci, che sarà in programmazione all'Apollo 11 a Roma da giovedì 12 luglio. Dario, benvenuto e ben trovato. Ciao a tutti, ben trovati. Descriviamolo un po'. Ma Morto Stalin se ne fa un altro è una commedia satirica, ironica, quindi è una commedia nera, cioè è un film che di quelli come pochi se ne riescono a vedere, che allo stesso tempo ti fanno ridere fortissimo ma ti lasciano dentro un senso profondo di interrogazioni e di dolore e di comprensione di fatti storici che tutti noi abbiamo studiato, visto, seguito, perché non c'era nel periodo della dittatura di Stalin, e riesce a trasmetterti delle emozioni troppo forti. Il regista è Armando Iannucci, non è un regista estremamente conosciuto nello Star System, ma è un regista che ha avuto un grande successo con una fiction, una serie televisiva del Ficovit. È un regista che fa appunto della satira all'inglese il suo pezzo forte, su questo è un campione. Ha messo insieme una squadra di super talenti, da Steve Buscemi, inutile presentarlo, Jason Isaacs, ma c'è anche Olga Kurilenko e tanti altri. È un film che siamo molto contenti di aver sposato l'iniziativa dell'Apollo 11 di riportarlo in sala in versione originale, come tradizione dell'Apollo 11 di Roma, dopo che a inizio anno, il 4 gennaio, è uscito nelle sale italiane con anche un ottimo poi successo al botteghino. Sono alcune particolarità su questo film per cui merita di essere anche visto e rivisto. Sicuramente il fatto che in Italia sia uscito a gennaio è stato una bella cosa, e ci siamo riusciti. Il film in Italia è stato visto in primo luogo a Torino, al Festival di Torino, e poi da lì a poco siamo andati in sala, ecco, in Italia. Ma è uscito poi anche in Gran Bretagna a ottobre, ma in Russia no. In Russia non è uscito perché non lo hanno fatto uscire. In Russia è stato l'unico caso nell'era post-sovietica dove è avvenuta una vera e propria censura dall'alto, dove l'uscita del film nelle sale per ovvi motivi è stata vietata. Sì. Senti Dario, quanto sarà in programmazione? Una settimana? Ma io spero che gli amici dell'Apollo 11 possano portarlo avanti per tutta l'estate, ma così temo non sarà, perché la particolarità anche dell'Apollo 11 è quella di avere una programmazione differente, disomogenea e molto, con molti titoli e che tengono anche a lungo, fanno molti eventi e spero che lo terranno molte proiezioni, ma al momento è confermata una settimana. Sì. Senti, un'altra curiosità, dicevi dell'uscita in Gran Bretagna e della mancata uscita in Russia, e all'estero altri luoghi, altri risultati? Questi sono quelli più eclatanti, sì, da riportare, proprio perché in Gran Bretagna è stato un campione di incassi, Armando Iannucci, è appunto originario della Gran Bretagna. In Russia è stato un caso, il film è uscito in tutto il mondo, non ho dati alla mano per dire l'uscita americana o le altre uscite, ma ecco, è un film che è diventato anche, come dire, un po' un cult, proprio per la sua portata ironica, e è uno spasso vedere certi attori giurarsi con delle pezzi da 90 della storia mondiale, non solo quella russa, ecco, di quel periodo. Bene, allora ricordiamo Morto Stalin se ne fa un altro di Armando Iannucci, in programmazione a partire dal giovedì 12 luglio all'Apollo 11 a Roma, distribuzione ai Wonder Pictures. Un ringraziamento e un saluto a Dario Bonazzelli. Dario, a questo punto ci sentiamo presto, spero. Ci sentiamo presto, grazie ancora a te Federico, e soprattutto tanti tanti complimenti ancora per il microfono d'oro. Ma ce lo hai già in mano un microfono d'oro oppure... Sì sì, è una targa, comunque non è oro massiccio. Arrivederci a tutti. Ciao, a presto. Ciao. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa, con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.